Veramente credi a ogni cosa che dico? Sai che odio volare come d'argento amico. E poi l'ultimo aereo è già partito, quindi non mi aspettare come il figlio che non è mai partorito. Non ho l'anello al dito, in amore ho fallito. Salutami tuo marito, rincoglionito. Potrei avere una donna diversa per ogni giorno, ma poi stressano ogni giorno e la notte non dormo. Mi chiudo a casa e le trova l'abitazione. Miss localizzazione, ti scopa colazione. E visto quell'intuizione so già che è una relazione. Antiumiliazione, emozione in putrefazione. Mi lascia alla stazione, mi riprende a Monte Napo. Questo è il punto, sono il capo, metto il punto e vado a capo. Mi invita alla sua festa dicendo che c'è anche l'apo. Che ci vado, lui ci ricasca. Sono di nuovo punto a capo. Nuovo bolide, modello S2000. Tu mio, rimettiti in fila mentre inizia a far la pila. La mia crew, Crazy Fox, fotte pure Amanda Knox. Dentro al SUV nero, parcheggiato al box. Lo so che ti piace così. Nesso logico, scogito, scarabocchi su volti di noti ipocrite nei miei rapporti sciolti. Per queste menti vergini ne sono uscito pazzo, perché dentro quella testa non gli è mai entrato un cazzo. Scherzo, forse esagero, sì forse troppo, ma sui vostri commenti prima ci bevo, dopo ci sbocco. Storto, per vostra colpa non chiudo occhio. L'amore un rete, ci sono rimasto sotto. Sputtaniamo feste se giro col dottoresse. Paranoico, per curarmi servono due dottoresse. Scusa i miei disturbi, tu cerchi principi azzurri. Intanto ti regalo barre che così ti ci masturbi. Forse lei mi lascia appunto per le troppe pare o pare. Visto dal di fuori che mi vesto troppo male. Care minimizzo ma spesso mi fisso. Persi in pensieri complessi, sentimenti come cazzo li organizzo. Storia vera e cruda, stronza agli occhi si mostra nuda. Sotto do nel cuore, bugiarda, amore giura. In questo grande mare nessun amante più dura. Dai un altro disperso nel triangolo delle Bermuda.